Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Era un quarto d'ora che mi stavo accorgendo che anche quando entravo in galleria c'è una sorta di luminescenza in quella parte dello scompartimento di cui non vedevo l'occupante. Ma era strano, era come se ci fosse un ectoplasma, un'apparizione mariana o una lucciola gigantesca. Passavo sotto le gallerie e tutto si illuminava in quell'angolino lì. Mi avvicino e vedo una ragazza che molte volte mi è capitato di incontrare nei miei viaggi e di ascoltare da lei le sue peripezie di persona che vive single, che poi ha trovato l'appartamento, poi ha restaurato l'appartamento, poi finalmente ha trovato un fidanzato, poi il fidanzato se l'è lasciata, poi ha trovato un altro fidanzato, poi finalmente pare abbia trovato una stabilità sentimentale. E la luce era data dal suo radioso essere felice. Perché? Perché nel dito infinitesimale, piccolo, micrometico, praticamente invisibile, c'era un anello. E lei guardava quest'anello come se avesse all'anulare un gioiello preziosissimo. Beh, io ho dovuto naturalmente chiedere informazioni. Aspetta, guardo bene, cos'è quel cerchiettino quasi invisibile al tuo anulare? Che cos'è? È il mio nuovo anello. Oh, che bello, dove l'hai trovato? È una storia lunga, l'ho trovato insieme ad un, cioè me l'ha portato il mio ragazzo. Ah, è l'anello di fidanzamento? Non proprio, cioè vabbè, stiamo... È l'anellino di fidanzamentino? No, allora, stiamo tornando da Catania, dove sono stata a un matrimonio insieme... Con lui? Con lui. E lui dov'è adesso? È rimasto giù? Lui è tornato con l'aereo, io ho preso il treno. Ah, tu scegli la via, perché tu hai paura dell'aereo? Io detesto l'aereo. Ah, sì. Ecco, mi divide questa scelta. E no, vabbè, poi abitiamo anche in due città diverse, quindi lui... Ah, beh, lui va più al nord e tu ti fermi, sì, a metà. E quando è tradato giù, allora, in Sicilia? Allora, sono andati a questa cerimonia in un castello. Cos'è, un matrimonio di un'amica? Era un matrimonio di una mia amica, una cerimonia suntuosa, romanticissima, in un castello di sua proprietà, insomma. Vabbè, per tale c'è anche il castello. Cioè... La vera celebrazione dell'amore. E vabbè, poi... se uno non c'ha il castello non si può sposare. No, infatti era in più, era un castello. In più. No, era proprio il matrimonio perfetto. Sì, ma il marito era adeguato almeno a questa cornice oppure? Non c'è fatto caso. Insomma, diciamo che la sposa lo sovrastava, sì. Vabbè, ti sposi una col castello, non puoi pretendere di... Sei un principe consorte sempre. Infatti. Ma com'era lui? Triste? No, lui felice, vabbè. È felice, certo. È attaccato al cappello, felice, sarei anch'io felice. felice. Felice, lei com'era? Contenta? Lei era contentissima. Quanti anni ha la tua amica? 29. Ah beh, si è sposata giovane. Sì. E adesso si aspetta dalla vita? E adesso hanno detto che non è una fine, ma è un nuovo inizio. Beh, a fine si sposa, sono andato in vacanza. Eh beh, certo, mi rendo conto, la vita nel castello tutti i giorni uguali. Ma no, con quei ponti levatoi lì, con quelle sale, ma non vivono lì. Lì cosa ci fanno? Della famiglia, insomma. E la famiglia che ci fa il castello? Organizza altri matrimoni. L'affitta per i matrimoni? Sì. Ah, quindi lei ha fatto anche il suo. Ha fatto anche il suo. E dove sono andati in viaggio di nozze? No, scusa, solo mi... In Cina, Giappone. Ah sì, tutto. Poverini. La sera siamo usciti, io e lui siamo andati a un pub e lui è andato... Scusa, ma no, voi potete alloggiare in un castello se andate in un pub? Ma no, poi alla fine, cioè, il matrimonio era di giorno, poi... E non va nemmeno ospitato nelle tante sale del castello? Non ce n'erano così tante. Vabbè, che castello è senza tante sale? Vabbè, forse eravamo amici di secondo grado. Ah, di ecco, secondo, voi quindi... siamo andati con gli stallieri. Esatto. Nel pub. Il pub, ci sediamo al pub e... E avete ordinato? Abbiamo ordinato due margherita. Beh, questa è una bella idea. Col frutto della passione. Beh, margarita non si fa col frutto della passione. Però c'era, insomma, una variante. È una bestemmia. Margarita con il lime e basta. No, c'era che galleggiava il frutto della passione. Questa cosa fai mia. Vabbè, c'avevi qualcosa che galleggiava. Mentre io bevevo e margarita con il frutto che galleggiava. Frutto della passione, mi ha detto: ha una cosa da darti. Che era il frutto della passione. No, però non ha alcun. Cioè, non ha significato. Scusa, ti fa un regalo e ti dice non ha significato. Sì. Cioè, non è che vuol dire che. Cioè, ho visto che un passo avanti o 10 indietro. Sì. E tirava fuori questa. Sentatela bene che non era il vibranello della Durex. Beh, allora? Quindi ho tirato fuori questo pacchettino, l'ho srotolato. Pacchettino perché era proprio piccolino. Sì, era piccolino, l'ho srotolato. Cioè era un pacchettino tipo di carta. L'ho srotolato e dentro c'era un anellino di legno. Ah, di filo interdentale. Pensa, manco avevo capito, tanto è piccolo. Di legno. Sì. Hai fatto Geppetto, che anello è un anello di legno? No, vabbè, era simbolico. Beh, è un simbolo caduco, scusa. Ma è stato romantico. Ma il vostro amore è basato sul legno, che è un materiale che prende fuoco, che si marcisce. Ma no, il legno è il materiale degli alberi che crescono, della natura. Si dice anche figa di legno, che non è proprio un complimento. Vabbè, no. Un anello di legno, e ti dice non c'ha significato. No, ho detto, volevo soltanto darti un... Cioè, con legno ci si fanno le bare, non è un bel segno, secondo me. Ci si fanno anche le barche. Beh, barche per scappare via. Il marinaio è una donna ogni porto. Non mi sembra una bella premessa. Vabbè, a me il legno sembra ma c'è anche un una pietra e legno. No. Vabbè, l'anello è quello che si fa. Che è l'anello di Barbie? Cos'è? È l'anello romantico. L'anello. Ma c'è scritto qualcosa dentro? No, lo vogliamo far incidere sul legno? Sì. Ma sul legno incidi sul legno, dai. Non so, con un laserino o qualcosa. Ma poteva comprarselo piccolino anche d'oro bianco. Ma no, non voleva fare il classico anello del fidanzamento. Ma non ci puoi dare le mani, il legno si gonfia, poi ti stringe. Questo non ci avevo pensato. Devi darci sopra la vernice per le barche, almeno una volta l'anno. Sennò come fai? Farò. Ecco, grazie no, del consiglio. Attenta. No, veramente si comincia a rovinare tutto. Compri la vernice per le barche, ce lo dai sopra, una volta l'anno lo vernisci. Sì. Va bene. Beh, non è che sia proprio... Beh, non ti galleggia la mano, quando nuoti ti riposi, c'è una mano che galleggia. Vedi, è sicuro. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quindi è un anello di quasi fidanzamento, ma non di fidanzamento. Cioè, non mi ha chiesto di sposarlo, ma ha detto solo che gli faceva piacere che io avessi qualcosa addosso che mi facesse pensare a lui. Ma potevo comprare una maglietta. Mi ha regalato anche una maglietta. Insieme all'anello? No, prima. Secondo te quanto costava questo anellino? Ma non lo so. Sopra sotto i 10 euro? Sotto. Sopra. Sì, sopra i 12 euro. Sì. Una cosa. Vabbè, ma non... C'era il... Ma perché questo è sempre fa cose, vale il pensiero? Vale anche la sostanza un pochino. Cioè, vale anche per... Non sei rimasta un po' male? Adesso a me lo puoi dire. No, non è un uomo tirchio. Beh, non è manco uno spendaccione. No, vabbè, è un periodo in cui comunque abbiamo parlato molto della relazione. Adesso fare un gesto simbolico, ma non sì, troppo. Sì, ma ci sono ecco, dei gioiellini che non sono impegnativi, ma è una cosa un pochino più mirata a durare. Ma no, doveva essere una cosa semplice, anche forse degradabile. Degradabile? Sì. Ah, quindi è una premessa di un amore che potrebbe degradarsi. Non è un amore eterno, questo l'anello dovrebbe essere eterno. Il simbolo dell'amore eterno, anche se è una buffonata, è chiaro che pian piano, prima di legno, poi sarà l'anello di bronzo, l'età, poi avrà l'anello sì, di... Sì, passi tutte le età dell'umanità, capito? Ma sì, pian piano, no, è bello così. Sì, sì, l'età dell'oro però viene prima dell'età del bronzo, capito? Allora, okay. Allora faremo oro. Cioè poi l'età bronzo. Dell'oro è un'età simbolica che non c'è, per questo è... L'età dell'oro affonda nell'utopia, nell'idea di averci delle origini celesti, ultraterrene. Quella è l'età dell'oro. In realtà nessuno, non c'è l'età dell'oro in cui l'uomo maneggiava l'oro. Non esiste. E quindi per questo l'anello si fa d'oro, perché appartiene a qualcosa di utopico, di sogno, di desiderio, ma non di realtà. L'anello di legno... Però per l'anello d'oro bisogna aspettare il matrimonio. Perché? Perché l'anello di fidanzamento è d'argento. Ah sì? Sì. Ma dove l'hai scritto? Col di platino, col di platino, cara, di platino. Di platino? Certo. Te l'hanno detto a te che è d'argento. Non lo so, io vedo che comunque è grigio. Eh sì, ma è platino. È platino. E costa più dell'oro il platino. Molto più costo. Col brillocco. Certo, è col brillante, sì. Ok. Beh, invece com'era andato il viaggio? Qual è stato il preludio a questo dono d'amore? Il preludio a questo dono d'amore è stato andiamo a divertirci. E lui però, secondo te l'aveva già comprato, se l'era già portato dietro o l'ha comprato in Sicilia? Ah no, lui ce l'aveva da un sacco di tempo in realtà. Lo teneva da parte? Lo teneva da parte da un sacco di tempo con sé e ha aspettato tipo 2 settimane prima di darmelo. Ma nel frattempo avrete detti cose, cosa era successo? Avrete lasciati? Nel frattempo ce l'avevamo lasciati. Avrete lasciati, ecco. Sì. Quindi lui era, diciamo, è un ci siamo rincontrati. È un risarcimento, quanto è durato il lascito? Una settimana. Ah beh, non è lascito. Poco, una no, settimana non, ma non era, cioè, è una, un po' di... È un assestamento. Sì. Se non ci fossero le settimane di assestamento, uno deve dare un motivo all'assestamento, no? Sì. Cioè, adesso ci lasciamo. E poi una settimana uno sta tranquillo, respira, si fa i fatti suoi, no. Va dal parrucchiere, si fa le unghie, si cambia l'armadio, esce con le amiche, va a letto presto e stai sveglia tardi, tutte quelle cose che non può fare un fidanzato che è in pelle. Eviti il buonanotte, buonanottino, buongiornino, e come stai amore, queste cose. Una settimana uno respira. E poi si ributta dentro finché non c'è un'altra settimana di assestamento. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Se doveste andare indietro, ma meno del legno, di cosa potrebbe fare? Di cartone? Allora c'è la di plastica. Anellino di plastica, l'anello di Barbie. L'anellino di Barbie, oppure c'è anche tipo il cerchio della bottiglietta, il cerchio del tappo della bottiglietta. Ma tu sei tutta contenta. Sei contenta in quanto ilarità da disperazione, oppure sei contenta? No. Ti fa tenerezza, sì, questa cosa. Ma tu pensi incontri uno di quei affamati, infami uomini che ti porta subito, ti regala l'orologio acciaio e oro? Non mi piace. Ma lo fanno, la donna impazzisco. Ma mi sono sentito dire a quell'amica mia quanto l'ama il fidanzato. Dico, gli ha regalato un anello da tot. Però per l'anniversario mi ha fatto l'iPad. A me quello è un regalo utile. Un po' retro, però è come utile. Retro? L'iPad? Ma beh, ci fai con l'iPad ormai, dai. Ma io sei tutto. Vabbè, non avevi un telefono te? Sì, ma rotto. Ah, vabbè. Rotto tuttora, quindi. No, l'iPad è un po' vecchio, non si usa più, ma è un attrezzo che fa parte del passato. No. Diciamo, comunque, vabbè, si vede che c'era una partita di iPad a buon prezzo. Ma no! Sì, perché è come andare a un outlet e comprarsi il vestito di una collezione 2 anni fa, regalare un iPad oggi. Non è il top della tecnologia. Beh, diciamo che non ce la stiamo. Cioè, non è che siamo ricchissimi in questo momento. Abbiamo preso i vestiti per il matrimonio tutti al mercatino dell'usato. Vabbè, quello è fatto bene. Intanto era un livello talmente alto, sì, che comunque sia quello che facevi non sarebbe mai stato all'altezza, adeguato. La sposa che vestito aveva? Un vestito di seta. Figurati. Grezza, bellissimo. Ha costato più quello che color casa palle. Tua, capito? Ma la famosa no, casa no, col no, ma non era. Sì, non, era, non te... era inutilmente sfarzoso. Per quello costa molto. Le cose inutilmente sfarzose sono quelle che fanno per le spose che vedi in televisione, con la mamma che si impezzi. Ma sì, dai. Una cosa che sembra uno straccetto in realtà costa milioni. No, hanno fatto una cerimonia semplice. Che si mangiava? Tutto. Ah, si è mangiato tutto. Molto. Sì, era buonissimo. Ma poi alla fine del pranzo che è successo? Sono andati via gli sposi? Tutti No, sono rimasti. Poi a dormire nel castello? Sì. Sì. Alle dame del castello piace solo fare quello. C'è una sala attrezzata per la prima notte? Ma non lo so. No, è la domanda. Non ho chiesto. Ma c'erano le carrozze con i cavalli? No. Musicanti? Sì. E cosa suonavano? Jazz. Ah, jazz, vabbè. Beh, sì, c'era un. È un po' tutto un po' ancien regime, diciamo. Guarda, ci sta bene, dai. Jazz. E poi, ma quanti anni media hanno? Scusa, hai detto che era giovane la sposa. 30, e 30, lo sposo 30, pure? Sì. Certo, 30 anni, poverini, già sposati. E che faranno più nella vita? Ma questo è il momento. Possono solo tradirsi. Che altro possono fare? Grazie. E da quale può essere il passo successivo dopo il matrimonio? Fammi capire. I sacramenti sono finiti, c'è solo l'estrema unzione. E le possibilità. C'è il battesimo. Ma sì, ma non è il tuo. Il ah sì, ah, perché vogliono fare il figlio. Vabbè, ma certo, se uno si sposa. Ah, perché i figli senza sposarsi non possono nascere. No, però uno solitamente dopo che si sposa poi fa anche, no? Ma se lo fa anche prima e poi si sposa perché l'ha fatto. Sì. A me è successo così. Prima ho fatto i figli, poi mi sono sposato. Matrimonio riparatore? Beh, se riparatore, sai che riparazione, non c'è più niente da riparare. Ma boh, non so, da fare qualcosa se è sposato. Ma è normale, non lo so, boh. Erano altri tempi però. Vabbè, ti inviterò al mio di matrimonio quando arriverà. Beh, oddio, l'anello giusto. Beh, faccio in tempo a mettermi sulla sedia a rotelle col catetere, secondo me. Se cominciamo dall'anello di legno vedo un cammino molto lungo. Comunque, in bocca al lupo. Ti aspetto. Per non lo tenere al sole, eh. Vabbè. No, no, perché sennò si deforma il legno, anche con il caldo, capito? Si dissecca. La sera devi sempre ungerlo, mi raccomando. E compra vivilegno, quella cosa che si mette sui mobili a casa. Ti dagli il vivilegno tutte le sere. Ciao, ciao. Buon viaggio, ciao. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Mi sono lasciato alle spalle l'alone luminoso della felice fanciulla che per un anellino di legno sta barattando la sua speranza di vita sentimentale, quando improvvisamente mi coglie un'altra sensazione sensoriale. È come se ci fosse un viaggio in sinestesia, cioè con la possibilità di percepire al di là della specifica di qualunque acquisizione sensoriale, tatto, olfatto, udito, vista, qualcosa che coglie gli altri sensi. Io direi che questa sensazione è più intrisa di un profumo che è il naturale, classico, inconfondibile, ormai storicamente certificato profumo di donna, che non è legato tanto all'essenza con la quale copre il suo odore naturale, ma tanto all'idea che in fondo per lì è passata una donna, lasciando la sua scia, con qualche retrogusto però di frisella, di olio delle Puglie, di frittata con la cipolla, insomma, ancora una volta ho colto l'artista pugliese nella sua transumanza tra il paesello d'origine e la grande città nella quale lei senz'altro vorrebbe sfondare. Mamma ti fa cosa? I caciocavalli? Il cacio ricotta, ma soprattutto l'olio, perché non può essere. Quindi nella valigia c'hai i bottiglioni dell'olio? Esattamente. L'olio pugliese, sì, quello bello, denso. Esatto. Poi? Anche con un piccantino, con una lieve puntuta di piccante. Perché le mamme pensano sempre che tu muori di fame quando stai lontano da loro. Sì, assolutamente. Poi cosa c'è? Guarda, tarallucci. Quelli invece sono dei biscotti alla marena fatti dal panificio di fiducia. Taralli bolliti, taralli alla cipolla. E per quanto ti dura questa dotazione? Beh, devo dire che quando porto queste delizie durano poco, perché ovviamente gli amici vengono a casa. Sì. Ti avevo lasciato il primo giorno che con la tua valigina di cartone venivi alla conquista della capitale. Ti vedo bella, bella cambiata. No, è il reggiseno che hai messo il push-up. Quindi sei entrata a pieno titolo nel mondo dello spettacolo. Non ancora, in realtà mi vogliono più inserire nella fase creativa, perché ho diverse idee. Allora, uno ti dice ti voglio inserire nella fase creativa, che vuol dire? Nella fase creativa e organizzativa, perché sono brava in quello, per cui cosa significa in soldoni, che sai fare? Nella creazione di festival, eventi, concerti. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Quindi non fai più l'artista, ma organizzi. In realtà io sono venuta a Roma per fare l'artista. Ma non ti ci hanno creduto. Non praticamente vogliono più che altro inserirmi nella parte organizzativa, non so perché. No, e quindi è l'inserimento più facile per loro. È probabile, però no, io ancora non demordo. Anzi, a fine mese anche servizio fotografico di una fotografa che mi hanno consigliato. E dove si svolge il All'aperto. Dove? Non lo so, è un posto segreto. Ti portano in un posto segreto con una grande fotografa a fare uno shooting. Uno shooting fotografico. E ti hanno detto cosa devi portarti, roba tua oppure ti danno loro anche? No, roba mia, è variegata. Cosa pensi, di cosa indosserai? Allora, penso di portare un jeans, una canotta, un abito lungo, un abito corto e anche... Il trucco lo fai da sola? Sì. Perché comunque so truccarmi. Trucco, parrucco, tutto te. Trucco, parrucco io, sì. Vabbè, un po' scamuffo, molto una... scusa, di solito è il fotografo che porta queste persone. Lo so, in realtà ho trovato anche una fotografa che fa questo. Però il primo shooting fotografico lo voglio fare con quest'altra, perché comunque è accreditata. Una location naturale, so. Naturale, sì. C'è un pratin, bel prato, sì. Delle ninfe. Oppure a Villa Torlonia, vediamo un attimo. Ma la Villa Torlonia ci vanno anche i quarti a fare le foto dei matrimoni un mese dopo. Dal viaggio di nozze. Non lo so, comunque io preferisco un campo fiorito, normale, semplice, perché le voglio molto. Devo distendere semplice. Fra i fiori? Sì. Cioè, anche nuda fai foto? No, e te lo chiederanno, dai. No, vabbè, no. È una, sono foto che servono per me, per lavorare, ma d'arte, per però, l'agenzia, foto d'arte, no? E quelle le farò successivamente. Ma dormi ancora nell'ostello delle monache, no? Guarda, io ci sto... No, adesso no. Sto dormendo a casa, sto dividendo con una ragazza, però sto ripensando di tornare nell'ostello delle perché monache. Perché stavi meglio? Sì. Perché con questa non ci riesci a far vita insieme. No, io ho scoperto che non sono più portata per la convivenza. Beh, mica non sei più una studentessa. Non sono più una studentessa, sì. Ma cos'è ti dà fastidio? La condivisione degli spazi comuni. No, e anche l'intenzione, perché comunque c'è una differenza da chi viene qui per lavoro e quindi è concentrato anche nel tempo. E lei non fa una mazza tutto il giorno? Eh no, perché lei è già di Roma, per cui... E quindi che fa? Salza la tarda? No, lavora, però non ha le mie cioè stesse esce, esigenze. Cioè esce, timbra cartellino, poi torna a letto. Esattamente, ma siccome io ho lasciato una bellissima terra che è la Puglia, per cui io sono a Roma, comunque incentrata nel raggiungimento dei miei obiettivi, non per uscire e divertirmi, perché quello ecco, lo faccio ti porta, anche in Puglia. Andiamo a prenderci un sì, a ballare, ma non sono ancora in quello spirito, ecco. Vabbè, perché non ho bisogno più una liceale, dovrei pensare alle cose serie, appunto, no? E quindi e questa invece è una cicala, sempre in giro. È una cicala, anche se è più grande di me, insomma. Quanti anni ha? 45. Beh, nella fase della ricerca disperata dell'ultimo fuoco, no, è chiaro. E quindi no, dimmi il suo territorio di ricerca, tanto non diciamo chi è. Dove ti porti? Vabbè, ma se te lo dico. No, non voglio sapere il nome. No, credo che la tipologia di locale in cui la ti porti. La tipologia sono dove si balla latinoamericano. E beh, ci sta belli strusciati lì. E chiaramente ha predilezione per gli uomini di colore. Quindi lei afro-cubano probabilmente. Afro-cubano, sì, ma più che altro sì, questi posti che oggettivamente non frequento, per cui. Quindi se li porta a casa poco. E tu c'hai una fila a casa di maestri di danza afro-cubana, dici voglio la mia privacy, questo. Voglio la mia privacy. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Quando lei riceve i suoi istruttori di danza, tu dove vai? Ti manda... No, lo fa quando io non ci sono. Però trovi le tracce. No, è molto. Usa il tuo letto? Educata. No. Che ne sai? Ma vengono tanti. No, è una stanza a parte. No. Ma ti è mai capitato di sentire la notte dei mugulì, delle urla? No, non lo fa. Sì, non lo fa. No, mi chiede continuamente quando mi allontano e vado fuori Roma, quando torno. Il turnover com'è? Molto intenso? Non lo so. Quindi tu entri e non vedi nulla? No, non vedo nulla. Tutto pulito, tranquillo. Soltanto che sì, vedi lei, c'è questo grande interesse. Molto rilassata lei. Molto rilassata, sì, beata lei. Vabbè, si torna dalle suore, non è che l'alternativa è esaltante. Ma mi dà comunque, sai, quell'aria e quella, voglio dire, quell'austerità che serve per la concentrazione. Hai ragione, non bisogna concedere nulla al desiderio, ma in questo momento pensare soltanto al lavoro. Sì. Alla prossima, ti vedrò la prossima volta ancora più premiata e ancora più introdotta nel rutilante mondo dello spettacolo romano. Ciao cara. Ciao. Il treno va. Oggi l'audiolettera mi pone un problema in sé abbastanza divertente. Nulla di tragico, nessuna vicenda d'amore che chiede soluzione o chiede spiegazione. È semplicemente un fatto tecnico. qualcosa legato a un'espressione che nella maggior parte dei casi, molte volte, quando noi mettiamo in atto, simuliamo o enfatizziamo o millantiamo. Beh, in questo caso una persona che è costretta a millantare un bacio deve naturalmente fare i conti con il legittimo tenutario del diritto della sua bocca da baciare. Caro Gianluca, la vicenda che ti voglio sottoporre non ha niente di particolarmente peccaminoso, anzi, al contrario, l'assenza di peccato è proprio ciò che devo dimostrare. E quindi voglio sapere tu che cosa faresti. Mi spiego. Da settembre frequento un corso di teatro. Fare l'attrice non è il mio lavoro, ma ho scoperto che mi diverto tantissimo e penso di farlo anche bene. Abbiamo messo su un gruppo misto di ragazzi e ragazze ben affiatato e tra 2 settimane mettiamo in scena il nostro spettacolo, una commedia. Il nostro insegnante mi ha dato un ruolo che mi piace molto, ma c'è un ma. A un certo punto della storia è previsto che io baci appassionatamente un ragazzo di cui nella finzione sono completamente innamorata. Il problema è presto detto. Ho omesso di raccontare al mio fidanzato questo passaggio della mia performance da attrice quando alcuni mesi fa il regista mi ha dato il ruolo. Né mi sono sentita di rifiutare la parte per un bacio. Ma quando ho cominciato a fare le prove, non so perché, non me la sono sentita di dirlo al mio fidanzato e così, settimana dopo settimana, ho rinviato la cosa. E ora che siamo in prossimità del debutto davanti al pubblico, non so che fare. Ed eccoci nella vicenda del classico divanetto del produttore, però invertita. Molte volte abbiamo sentito il racconto, ma anche della ragazza artista aspirante pugliese che abbiamo sentito poco fa, del produttore che ti chiede per provare il tuo talento attoriale di simulare la scena del bacio, sempre la scena del bacio, chissà perché non chiedono facciamo la scena del salto in alto, facciamo la scena del portacenere tirato in testa, facciamo la scena del calcio sulle palle, no, sempre la scena del bacio, è una maniera provolonica per usufruire e approfittare della bocca di una giovane aspirante attrice. Ma in questo caso il problema è ben diverso. Questa ragazza è lusingata di aver avuto una parte importante, non ha nessun problema nel baciare la bocca dell'altro attore. Poi sappiamo che i baci dati in scena sono baci che nulla hanno di passionale, la passione viene naturalmente interpretata, ma si pensa, si immagina, si spera che non ci sia passaggio di lingua interdentale e interlabiale. Dovranno abbracciarsi in maniera appassionata, congiungere le loro labbra e stare lì facendo finta nei mugolii, nei contorcimenti, che dia un grande gusto. Ma fa l'attrice. Se questa cosa le ripugna, facesse la droghiera, facesse la venditrice di aspirapolvere. Facendo l'attrice ci sta che deve baciare un attore, però non l'ha detto al fidanzato. Lui è abbastanza geloso, anche se non in modo esagerato, e mi ha sostenuto quando gli ho detto che cominciavo a fare teatro. Ha visto le foto dei partecipanti, mi è sembrato tranquillo. Però già so che non la prenderà molto bene questa storia del bacio per finzione. Ma ora che faccio? Se gli dico di prepararsi a vedermi baciare un altro, lui vorrà sapere perché glielo dico solo ora. E ovviamente penserà che io ho una storia con il ragazzo che recita con me, il che è falso. E però non saprei cosa rispondere. Se invece non dico niente, lui verrà ad assistere allo spettacolo con amici e parenti e immagino il suo imbarazzo quando voleranno le battute sulla fidanzata che è bravissima a recitare e ancora meglio a baciare. E se la prenderà con me, mi rovinerà la giornata. Insomma, non so che fare se penso a quante preoccupazioni mi dà questo bacio recitato rispetto alle altre 1000 cose che realmente devono far scattare la gelosia, mi viene da ridere. Eppure è così. Che faccio? È un bel problema, mia cara. Primo, tu non sei un'attrice, ci stai provando. Quindi lui, mettendosi con te, non aveva messo nel novero delle questioni da dover gestire il fatto che tu facessi l'attrice. Potresti farle di tutte, non soltanto baci, ma anche cose molto più coinvolgenti. Vai in tournée, frequenti un ambiente molto disinibito, entri in una familiarità fra realtà e simulazione, per cui molte volte potresti entrare e uscire da vari personaggi e da varie situazioni anche nella vita. Insomma, potresti fartela tranquillamente con molti tuoi colleghi in tournée e potresti, in quanto attrice, avere una disinvoltura nel concederti a delle uscite dal mondo, visto che l'uscita dal mondo fa parte della capacità professionale di saperla simulare e dimostrare agli altri. Quindi lui non sa che tu normalmente potresti baciare un altro uomo. non avendoglielo detto prima, avendo in questo tu molta coda di paglia, perché non gliel'hai detto? Attribuivi qualcosa di male a baciare quell'attore? Se non ti fosse piaciuto, se fosse stato qualcosa equiparabile, che ne so, devo andare a fare una gastroscopia insieme a un mio collega, scusa, stiamo nella stessa stanza, ce la fanno assieme perché sai, le sonde sono soltanto in coppia, quindi non sarebbe stato niente di male. Ma il fatto è che tu gliel'hai nascosto perché attribuivi a quel gesto qualcosa che ti turbava. C'è stato e ci fu forse, non voglio saperlo, ma tu che mi ascolti puoi dirle, passaggio di lingue, quindi passaggio di umori, quindi passaggio di tremore, di passione in questo atto che avete fatto davanti alla platea, e trovi una forma di piacere, di eccitazione, di divertimento al fatto che tu te la fai davanti a tutti, cioè davanti a tutti simuli che sei un'attrice, ma in realtà lo baci davvero, stare tra le sue braccia, prendere le tue braccia, è qualcosa che ti dà comunque piacere e soddisfazione, quindi in qualche maniera stai commettendo un atto adulterino. Siete fidanzati, gli stai facendo qualcosa che è molto vicino a un tentativo di corna. Quindi se tu parti con la coda di paglia, in realtà lui fa bene a arrabbiarsi perché non gliel'hai detto. Se tu gli avessi detto prima, guarda, devo anche baciarmi con l'attore, magari avrei fatto una mezza scenatina, ma se ti vuole veramente bene e sa che per te è importante avere quel ruolo, ci sarebbe passato sopra. Non è che un bacio stravolge in maniera così radicale la potenza di un amore. Se il suo amore pensa di essere messo in crisi da un bacio dato sul palcoscenico a un attore, beh, conosce poco della vita e conosce anche poco dell'attore. Che fare? Certè che se lui ti vedrà baciare all'improvviso quello di fronte a tutta la folla radunata nel teatro, ci rimarrà un po' malino. Tu puoi usare uno stratagemma. Tu gli dici all'ultimo momento che la scena del bacio è stata introdotta e devi darla per forza. Però lo rassicuri, perché se no se ne fa veramente un problema. Tu dimostra a lui che tu puoi, con del domopac, quella pellicola trasparente che si usa per conservare le caciotte nel frigorifero, cospargerti le labbra e tenere una sorta di diaframma fra le due bocche in modo che non ci sia un contatto carnale. E dopodiché tu potresti anche dare lui un'assicurazione attraverso una sorta di tampone rivelatore della saliva altrui che non ci sarà contatto di lingua. Le vostre lingue rimarranno belle imprigionate dietro la chiostra dei vostri denti. Gli fai fare il tamponcino sulla lingua e dici, vedi, non ho saliva se non la mia saliva. Naturalmente sto dicendo cose paradossali, perché da questa cosa non ne esci. O rinuncia alla parte, o rinuncia al fidanzato. Decidi qual è per te la cosa più importante. Ciao.